9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 25 di agosto. Oggi parliamo di crescita italiana e mentre abitualmente, come consuetudine, da questi microfoni sentite, non solo in questa trasmissione ma in tutte le trasmissioni, puntare soprattutto su una interpretazione della crescita italiana che deve il più della crescita potenziale dall'export e dalla manifattura, e quindi chiede di conseguenza di concentrare l'agenda e le priorità su come tentare di rendere più produttivo e più agevoli i margini per il manifatturiero che esporta, oggi adottiamo programmaticamente, come faccio ogni tanto, un punto di vista che è complementare e che è comunque diverso, perché il contributo alla crescita non viene certo solo dall'export manifatturiero, anzi uno dei problemi strutturali tipici del nostro paese, uno dei difetti anzi del nostro paese, è di dipendere troppo, per così dire, dall'export manifatturiero e troppo poco invece dalla domanda interna. Cioè il nostro difetto è quello di aderire al modello che poi si imputa anche come accusa alla Germania di voler praticare con un eccesso di forza, e noi in effetti in piccolo replichiamo il modello tedesco. La Germania è il primo paese manifatturiero, il primo paese esportatore dell'Europa, noi siamo il secondo manifatturiero, il secondo paese esportatore. Naturalmente la questione è che quando in un blocco monetario comune tutti vogliono adottare la linea della crescita con l'export che tira, si rivela una specie di illusione, perché i costi sono diversi, le produttività sono diverse, e naturalmente c'è chi imputa a quel punto alla Germania di pensare solo a se stessa. Ricordo a tutti che mentre la crescita americana sta rallentando, mentre i mercati vanno sempre più giù di fronte al fatto che la crescita americana rallenta, l'immobiliare rallenta, ieri il minimo dal maggio 95 della acquisto e vendita di case nuove negli Stati Uniti, la curva dei tassi a lungo sui titoli del debito pubblico dimostra che il mercato è sfiduciato sul fatto che ci sia crescita o inflazione, o entrambe le cose nel medio-lungo periodo. Di fronte a tutto questo la Germania invece ingrana una quarta marcia, cresce nel secondo trimestre di quest'anno del 2,2%, cresce del 3,4% sull'anno scorso, il ritmo quest'anno è del 3,5%, e se crescesse del 2,2% per quattro trimestri, pensate quanto crescerebbe la Germania, dell'8,8%. Noi siamo su un tasso di crescita più basso invece, perché pur replicando il modello tedesco lo replichiamo in piccolo, ma abbiamo una domanda interna troppo debole. E allora oggi adottiamo il punto di vista di chi richiama l'agenda nazionale alla priorità della domanda interna, cioè a tutte le altre componenti, oltre alla manifattura che esporta, come prioritarie, e che ne fa un'analisi. E le sintesi di questa analisi che approfondiremo oggi è che purtroppo l'aggiornamento della ripresa elaborato ieri, sto parlando dell'elaborazione aggiornata fatta dal centro studi di Confcommercio, vede una stima della crescita italiana ritoccata al ribasso, e quindi siamo allo 0,7% rispetto al annuale, rispetto alle percentuali tedesche che vi ho appena ricordato. Cosa si può fare per rendere complementare questa agenda rispetto a quella del manifatturiero che esporta? Quali riforme mettere in cantiere perché il portafoglio degli italiani destinato ai consumi abbia qualche cartuccia in più da sparare? Ed è proprio giusto adottare i due punti di vista come alternativi, o invece bisogna obbligatoriamente mettere insieme l'export manifatturiero e la domanda interna, perché altrimenti in ogni caso la crescita resta asfittica? Ecco, queste sono le domande che ci poniamo oggi, e la domanda che faccio a voi è di chiamare l'800 24 00 24 per dire che impressione sentite nell'atmosfera dei consumi intorno a voi, e innanzitutto per quello che riguarda il vostro portafoglio, che cosa chiedereste per avere un portafoglio un po' meno asfittico per la componente dei consumi interni. Poiché il mio motto, il richiamo alla politica che si perde in tutt'altri temi, è quello fare come la Germania, non solo per Pomigliano ma per la produttività, allora la domanda è: si può fare come la Germania anche per questo, oppure la Germania su questo non ha niente da insegnarci ed è ad altri paesi sulla domanda interna che dobbiamo volgere la nostra attenzione? Ecco le domande che rivolgiamo ai nostri ospiti in questa prima parte della trasmissione. Abbiamo innanzitutto Mariano Bella, che è il direttore dell'ufficio studi della Confcommercio faccio, a quella chiediamo di farci da Virgilio, perché tutto lo studio che ha fatto lui e l'aggiornamento che ritualmente gli chiediamo di ripeterci qua a Radio 24 si deve in buona sostanza a lui e ai suoi collaboratori. Buongiorno a Mariano Bell. Buongiorno. E poi a Giuseppe Bortolussi, conoscete benissimo Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIL di Mestre, che con i suoi dati ogni sabato dà una energica sveglia all'Italia. Grazie a Giuseppe Bortolussi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora Mariano Bella, io ho fatto una sintesi un po' così alla carlona, ma in realtà che cos'è che spinge al ribasso la stima di crescita del vostro ufficio studi? No, il punto che ha fatto lei invece è molto chiaro. Dunque, devo dare qualche numero. Fatto 100 la produzione nel 2009, diciamo il reddito prodotto dagli italiani, il 73% è dovuto al terziario, il 25% all'industria nel complesso e l'1,8% all'agricoltura. L'industria nel complesso la dividiamo nel 19% dell'industria in senso stretto, cioè la manifattura, e il 6,3% nelle costruzioni. Ora, non voglio far impazzire gli ascoltatori con i numeri, ma queste poche cifre segnalano e dicono in maniera incontrovertibile che, per quanto abbiamo un gruppo di aziende eccellenti che dobbiamo tutti imitare, cioè sono queste della manifattura esportatrice, diciamo le medie imprese della manifattura esportatrice, è insufficiente il contributo che può venire da queste aziende per migliorare il tenore di vita, il benessere, il reddito, il PIL di 60 milioni di italiani. Bisogna insistere di più sui servizi, in modo ovviamente complementare. Nessuno vuole distruggere quanto di buono abbiamo nel nostro paese, cioè la manifattura esportatrice. Dobbiamo però riuscire a copiarla anche con un pizzico di politiche dedicate ai servizi che sono ancora poco produttivi, visto che pesano il 73%, su cui bisogna puntare. La riduzione delle previsioni di un decimo, insomma, noi ora siamo allo 0,7%, non è una riduzione eccezionale, però mette in evidenza che, a nostro avviso, senza una domanda interna di una certa forza non possiamo attenderci tassi di variazione del PIL di qualche dimensione significativa. Non solo, ma se le cose dovessero continuare così, noi dovremmo accettare una triste realtà, diciamocelo francamente, cioè di uscire da una recessione gravissima, quella del 2008 e del 2009, con tassi di variazione del PIL inferiori a quelli già bassi con i quali siamo entrati. Ecco, questa è diciamo la sintesi macro della riflessione che abbiamo fatto ultimamente. E che poi vedremo di approfondire, perché ovviamente quando si dice terziario bisogna vedere qual è il terziario in cui lo sforzo di produttività e di valore aggiunto si rivela maggiore, in quale parte d'Italia sta, quanti occupati può riguardare, che cosa significa per il loro reddito disponibile. Piccolo inciso nel fare la domanda a Bortolussi, alcuni ascoltatori, che non mi fanno mai mancare la loro buona dose di randellate, io gliene sono grato, ricordano come io sia in apparente contraddizione con me stessa, perché dice: come, ieri dicevi che ha ragione la Fiat, allora i suoi dipendenti, e che ci vuole più produttività, e oggi scopri che la domanda interna è debole e quindi che i dipendenti sono pagati poco. Io posso dire agli ascoltatori che non mi sento in grande contraddizione, perché penso appunto che, siccome c'è un problema forte, che è il problema che poi porta a consumi interni molto limitati e porta a questa caratteristica che ci portiamo dietro da anni, perché ci sono milioni di dipendenti, soprattutto nel settore privato, che hanno andamenti degli incrementi retributivi molto più bassi del settore pubblico e che hanno visto un avvaloramento a 0, ogni anno del loro reddito disponibile, in quegli alcuni milioni di italiani bisogna concentrare lo sforzo, ma lì la retribuzione aggiuntiva secondo me può venire da retribuzioni di produttività trattate azienda per azienda. Quindi io non mi sento in particolare contraddizione, anche se immagino che alcuni di voi pensino che invece la questione è: diamo più paga a tutti a prescindere da che cosa fanno, e così ci saranno più soldi in circolo. Posso dirvi che è una visione un po' naif. Ma a Bortolussi chiedo invece: nel mondo del terziario, dell'artigianato, dei servizi alla produzione, delle piccole unità di base e così via, che cosa concretamente si potrebbe fare, immaginando i limiti dell'attuale finanza pubblica, non è che si possono chiedere chissà quali strepitosi incentivi o interventi ad hoc, però per sostenere questa componente, che è una componente che riguarda comunque alcuni milioni di lavoratori, piccoli imprenditori nel nostro paese, concretamente per questa componente che deve accrescere la produttività e il valore aggiunto nell'ambito dei servizi e che contemporaneamente si trova nelle ristrettezze, lo diciamo da anni, che cosa potrebbe essere la risposta per contribuire un po' di più alla crescita nazionale? Oscar Giannino, mi permetta una piccola, appunto, una piccola precisazione. A lei tutto, tutto per me. Quanto detto prima, Oscar Giannino è un economista, ma giornalista, non giornalista che si atteggia economista, quindi non è in contraddizione perché ha detto una cosa giustissima. I salari dipendono dalla produttività e è questo quello che succede in Italia. Essendo da anni bassa la produttività, i salari non crescono. È l'anomalia italiana. La crescita invece dei salari e degli stipendi pubblica amministrazione, dove la produttività è addirittura più bassa del settore privato. Ecco la principale stortura che rileva anche lo studio fatto dagli amici della Confcommercio, da Mariano Bella, dove si rileva appunto che sì, i consumi non crescono, sono problemi, ma per esempio c'è una zona dell'Italia, il centro, che sta crescendo più del resto dell'Italia e ha prospettive di crescita, perché c'è un settore, quello dei servizi di mercato, dove ci sono davvero i servizi alla persona, ma ci sono anche i servizi alle imprese. Allora, cos'è che ha bisogno questo paese? Intanto di capire, di parlarci chiaro. Per esempio, questa trasmissione è un grande pregio. Il quesito che lei poneva all'inizio, economia trainata dalle esportazioni o economia semplicemente trainata dai consumi interni? Ma abbiamo un esempio, il Giappone. Il Giappone ha un'altissima produttività, è competitivo nei mercati internazionali, ma ha sofferto una pesantissima crisi per 20 anni perché ha sacrificato i consumi interni, ha fatto un patto col proprio sindacato e per molti anni hanno tenuto i salari bassi, più bassi della produttività, per essere competitivi nel mondo, una sorta di mega dumping. Benissimo, vedete cosa ha prodotto? Ha prodotto 20 anni di crisi in Giappone. Io sono convinto che il vero problema sia l'equilibrio tra le esportazioni e l'Italia, come giustamente ha detto in molte sue trasmissioni Giannino, e gli va dato atto che sta diffondendo una cultura buona dell'economia, non quella solita, direi giornalistica banale, cioè quella che non siamo un paese allo sbando, un paese in declino, noi siamo un paese che ha bisogno di credere più in se stessi, di cambiare, di migliorare, ma noi siamo il secondo paese in Europa come produzione di beni, ma anche come export. È vero che è diminuita la nostra quota di mercato, ma tolta la Cina e un po' la Germania, tutti l'hanno diminuita molto di più. Quindi questo paese ha bisogno di una cosa essenzialmente, di una pubblica amministrazione che costi di meno. E ricordo che i paesi federali hanno un costo della pubblica amministrazione che è la metà dei paesi unitari. Questo perché è più efficiente. Hanno bisogno di chiarezza nella tassazione e quando le tasse italiane sono qualcosa come 6 punti, parlo di pressione tributaria, imposte, tasse, tributi, l'Italia è sul 30%, la Germania sul 24%, 6 punti non sono poca cosa, cioè danno una differenza notevole. E quindi il discorso del funzionamento della pubblica amministrazione, il discorso delle tasse, il discorso delle infrastrutture, non si possono pagare più tasse per avere meno servizi. Ricordo una cosa, in Italia molti fanno impresa, specie nelle piccole imprese, per una cosa semplicissima che è toccata a me che da 30 anni lavoro in un'associazione di categoria. Mi sono venuti a chiedere, certi che facevano gli operai, scusi, ma se io faccio l'imprenditore, ho ancora la mutua e la pensione? E io gli ho risposto di sì, e questi sono messi a fare gli imprenditori. Ora, questo è il mondo che ci troviamo di fronte. Cosa ha bisogno l'Italia? Di credere più in se stesso e di eliminare quelle strutture che sono nella tassazione, nella carenza di servizi e soprattutto di vederci un po' più chiaro. Mariano Bella, alcuni dei nostri ascoltatori dicono ma l'analisi ricordata sul peso delle diverse componenti, cioè industria, servizi eccetera, ci induce, dice un ascoltatore, a qualche perplessità, perché con una componente così elevata, superiore al 70% dei servizi, visto che molti dei servizi con cui abbiamo a che fare tra quelli pubblici o offerti dal servizio pubblico, che ci sembrano a bassa produttività, e alcuni privati offerti trasformando nel titolo proprietario ma preservandone la bassa concorrenza, e ci sembrano semplicemente estrazioni di valore ai danni dei clienti, è un po' difficile immaginare, dice questo ascoltatore, che da questi servizi possa venire poi una vera iniezione di concorrenza e produttività. È un'osservazione, secondo me, non molto corretta nella sua generalità, perché poi il problema è vedere quali servizi si sono messi in testa nella graduatoria della creazione di valore aggiunto e perché, quindi c'è bisogno di un'analisi un po' articolata, però ammettiamolo, nel complesso è quello che molti milioni di italiani hanno come idea dei servizi con cui si trovano poi a pagare i conti, le tariffe, eccetera, eccetera. E quindi come si gli si risponde, Mariano? Certo, ma il discorso delle liberalizzazioni rimane prioritario, questo ce lo dicono le varie authority in maniera costante, quindi certamente ci vuole più concorrenza e quindi poi più produttività nei servizi. È corretto anche il discorso della pubblica amministrazione, che probabilmente costa troppo, però se andiamo sul concreto, che cosa si dovrebbe fare a nostro avviso per migliorare la produttività nei servizi e quindi il reddito complessivo e quindi pro capite? A nostro avviso il punto fondamentale è di lavorare sulla dimensione delle imprese. È un discorso complicato, è un discorso che forse non piace a tanti, però è vero che la piccola e piccolissima impresa ha sostenuto questo paese per tanti anni. Però oggi forse un po' di economie di scala, un po' di valore dato dallo sviluppo dell'economia di costo è necessario, e quindi politiche per incentivare i consorzi, le reti di impresa, cioè tutti questi servizi sia alle persone che alle imprese devono crescere anche dimensionalmente per sfruttare l'economia di scala. È vero che piccolo è bello, ma forse non è più sufficiente. Tra l'altro il paragone con la Germania esportatrice secondo me non è perfettamente proprio, perché è vero che come struttura ci sono similitudini tra Italia e Germania, però se guardiamo i saldi, per esempio il saldo della bilancia dei pagamenti alla voce merci, la Germania ha un ordine di grandezza diverso dall'Italia, cioè noi non siamo la Germania. E allora possiamo provare a puntare su qualche altra cosa in maniera complementare rispetto alla manifattura esportatrice? Ragioniamo di esportazioni, per esempio. Una voce fondamentale delle nostre esportazioni è la bilancia turistica, cioè è il turismo. E noi diciamo questo, immaginiamo di avere una bottiglia d'olio, del nostro olio. Una cosa è esportarla, cioè metterla su una nave insieme a altre bottiglie d'olio, insieme a altre merci, e portarla in mercati lontani. Una cosa è venderla presso un ristorante del buon ricordo sotto casa. Se la vendiamo ai turisti stranieri che vengono nel nostro paese, ci approprieremo di tutto il valore aggiunto che dall'agricoltura fino al commercio, fino al ristorante che la vende, viene generato. Se invece la esportiamo, la maggior parte del valore aggiunto finisce in noli marittimi, assicurazioni, logistica, trasporto e altro. Cioè noi dobbiamo puntare un po' di più sul turismo, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno. Quindi cambiamento del mix delle politiche industriali, anche se industriali forse è una parola vecchia, riduzione del peso della pubblica amministrazione e dello Stato nelle nostre vite, oltre che che nell'economia, e liberalizzazione dei servizi, come dicevano i nostri ascoltatori, per renderli più produttivi. Secondo noi questi sono i pilastri su cui agire per cambiare un po' questo nostro paese e, non dico garantire, ma diciamo poter puntare con maggiore fiducia su una crescita che non sia dell'1% quando va bene e del -2% quando va male. Bella, di anno in anno, ritualmente, quando si avvicinano le finanziarie di fine anno, negli ultimi anni sono diventate, almeno le intenzioni di Tremonti, mere traduzioni in pochi articoli e tabelle della manovra pluriennale estiva, però abitualmente poi ci si rimette mano, perché tre mesi dopo, e quindi poi fioccano a centinaia i commi, però di volta in volta si ripropone la questione se aggiungere, mettere qualche provvedimento, qualche incentivo a sostegno della domanda, e ritualmente si fa il dibattito, e però in questi anni la risposta è praticamente stata quasi sempre negativa. Ricordo che provvedimenti tipo, per capirci, una defiscalizzazione della tredicesima in maniera tale che arrivasse una sferzata di liquido aggiuntivo al netto, non all'ordo, nelle tasche degli italiani per spendere, sostenere i consumi eccetera, di solito ha avuto una risposta da parte della politica, ma anche dai più poi degli economisti sui grandi giornali, che dicevano: ma queste sono misure che creano fiammate ma non creano grandi effetti permanenti. Resta la questione di come la politica economica possa dare incentivi ai consumi diversi da quelli di cui abbiamo parlato oggi. Adesso abbiamo parlato di misure strutturali sulla classe media di grandezza delle imprese, su come superare la resistenza degli imprenditori, che spesso preferiscono quelli piccoli chiudere magari piuttosto che associarsi, e quindi l'idea di rete è quella di non perdere la titolarità ma mettersi insieme per fare sinergia e vedere come fare per raccogliere più credito di capitale di rischio, capitale di debito, per avere più accesso ai mercati internazionali. Queste misure di cui ha parlato Bella finora sono misure strutturali, quindi hanno bisogno di un orizzonte di medio e lungo periodo, di incentivi amministrativi fiscali. Nel breve, invece, la Confcommercio ritiene che le risposte che ha avuto, più delle volte negative, da parte della politica, alla fine avessero un senso, o è proprio un errore concettuale quello che continua a fare la politica economica, di non capire che forse nel nostro paese servirebbero anche frustate nel breve, capaci di fare spendere di più. Noi abbiamo una propensione di impiego del reddito disponibile al consumo che, per fortuna, rispetto ad altri paesi è sempre rimasta su percentuali non da capogiro, non è mai arrivata 90 al 100% e oltre il 100%, che è il motivo della crisi poi che ci hanno regalato i paesi anglosassoni. Però attenti anche, perché a furia di fare poi troppo le formiche invece che le cicale, non è detto che stia sempre meglio. Le frustate nel breve servono o non servono? Io non è che ora noi vogliamo dare le ricette, insegnare ai politici quello che devono fare, però io mi baso sulla storia recente, 2008 e 2009. Noi abbiamo sempre detto: facciamo una riduzione fiscale anche piccola, magari concentrata nell'ambito delle tredicesime, e ci è stato detto no. E poi invece che cosa è successo? Che sono stati dati degli incentivi settoriali. Ora, sommando le quote, le risorse di incentivazione settoriale dagli elettrodomestici all'auto del 2008 e del 2009, arriviamo a 2,4 miliardi di euro. Cioè, non è proprio vero che i soldi non ci fossero. Si è scelta la strada di concentrare queste risorse su alcuni settori, e questa è una impostazione che a me non piace, semplicemente perché io ritengo che non c'è nessuno meglio dell'essere umano, del consumatore, del consumatore, che sovranamente, genuinamente, autonomamente decide lui, può decidere meglio di lui su come spendere l'eventuale reddito disponibile aggiuntivo. Tra l'altro ci sarebbe un vantaggio anche di tipo, come dire, strutturale in questi provvedimenti, come ha detto lei, che dovrebbero fornire, diciamo, delle fiammate di breve periodo. Perché se il governo dicesse: guardate, ora non diamo più incentivi settoriali, ma riduciamo la pressione fiscale, per esempio sulla prima aliquota, di 2 decimi di punto, sarebbero, non lo so, 12-13 euro a testa al mese, quindi poca cosa. Però questo è un primo passo, perché poi fra 7-8 mesi la riduciamo di altri 2 decimi di punto. Piccole cose, ma con una visione strategica, con un disegno. La propensione al consumo può crescere se le persone immaginano che si vada in una certa direzione. Gli incentivi settoriali sono eminentemente transitori, sono quelli quindi che spostano semplicemente risorse da un settore all'altro senza avere effetti aggregati sulla propensione. Invece una riduzione della pressione tributaria o anche contributiva, quindi se parliamo di cuneo fiscale, di competitività nei confronti dell'estero, anche se piccola, potrebbe avere degli effetti di lungo termine, perché sarebbe un passaggio lungo un percorso che ha una visione strategica che ci porta da qualche parte. Noi comunque a questo punto puntiamo, e non può essere altrimenti, che sull'inverarsi del federalismo fiscale, che potrebbe essere effettivamente una chance, non dico l'ultima, ma insomma una delle ultime possibilità per cambiare questo paese in meglio. Oh, io ho l'obbligo nei confronti di chi ascolta di dire, naturalmente su questo, di svelare il conflitto di interesse, nel senso che l'impostazione che Mariano Bello ha appena richiamato, criticando, sono quelle per cui Confindustria si è battuto. E io, siccome la radio di Confindustria, lo ricordo, perché non mi piace che su questo alleggi un equivoco, nel senso che Confindustria in effetti ha ritenuto meglio che quegli incentivi si concentrassero in settori in cui la domanda internazionale non era un volano eccessivamente elevato, stiamo parlando per esempio degli elettrodomestici bianchi e sull'auto, fino a che poi non è cambiato il segno della politica anche sull'auto, perché da quest'anno non ci sono più incentivi pubblici anche per l'auto, piuttosto che su una leva generale di scelta dei consumatori. E questa questione, questa impostazione, questa divisione tra grandi associazioni di imprese italiane, appunto, è un pochino il problema delle rappresentanze delle imprese del nostro paese. La mia modestissima opinione è che il giorno in cui Confcommercio e il mondo Capranica, questo patto che ha unito in una intesa di consultazione tutte le grandi associazioni del commercio, dell'artigianato eccetera, e dall'altra Confindustria e ci metto dentro anche la compagnia delle opere più piccola, ma insomma sapessero offrire una piattaforma convergente e comune alla politica di impegno di breve, medio e lungo periodo, beh, io penso che per la politica ci sarebbero meno scappatoie. Fino a che resterà la divisione e la contrapposizione, per la politica sarà più facile ovviamente mettere il piede ora su un pedale, ora sull'altro. Eccoci tornati in studio su questo punto di come rafforzare la domanda interna. Abbiamo sentito l'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, l'opinione di Giuseppe Bortolussi, adesso alcuni ascoltatori, e poi ci allarghiamo anche a un confronto internazionale, perché ci raggiungeranno Tobias Piller, corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung in Italia, un grande analista dell'Italia che ci, secondo me, è un punto di riferimento per capire come fare, per fare come la Germania, tra l'altro adotta anche moduli da altri per fare quello che fa, per parlare con grande serietà delle cifre vere della crescita tedesca, italiana ed europea oggi. E poi Carlo Pelando, un osservatore eterodosso, brillante, che va controcorrente e che dice: state attenti, perché qui, se noi trascuriamo troppo la domanda interna, qua noi non decolliamo da tassi di crescita troppo bassi. Ma intanto alcuni ascoltatori, cominciamo con Mauro dalla mia Torino. Mauro, come la pensa? Sì, ciao, buongiorno, grazie per avermi concesso questo spazio. Io la penso in questa maniera: la problematica del ristagno dei consumi interni dalla domanda interna sta in due punti essenzialmente. Un punto è sicuramente il fatto che i salari medi sono piuttosto bassi, quindi il dipendente medio ha un salario confrontato a quello di un dipendente europeo piuttosto basso, e allo stesso tempo i costi, soprattutto quelli, i prezzi veri dei prodotti, soprattutto i made in Italy, sono più alti in molti casi di quanto invece si verifica nel resto d'Europa. Porto due esempi. Io personalmente non sono un economista, sono un ingegnere, quindi vedo le cose da un punto di vista probabilmente molto più pratico, più conseguenziale. I nostri salari da economista non mi metto a ribattere all'ingegnere che dice che è più pratico e più conseguenziale, ma comunque passi, transetta questa osservazione, va dal dunque. Quello che voglio dire è questo, che per esperienza diretta il salario basso in Italia, in un'azienda, le parlo del mio settore automobilistico, un salario basso di un funzionario non è dovuto alla bassa produttività dell'azienda. Io non sono nella grossa azienda di cui si parla spesso in questi giorni. Nell'indotto? Non sono neanche nell'indotto, sono un'azienda ben più grossa, ma competitor della nostra italiana. Non mi faccio fare nulla. Ben più grossa. E le dico che il mio salario da funzionario di questa azienda è assolutamente equiparato al pari livello dell'azienda italiana. Quindi è basso? È basso, e le dico il reddito di mia moglie, funzionaria anch'ella di un'azienda italiana, altro settore, pari anzianità, è assolutamente identico al mio. Questo perché le politiche retributive sono fatte su base regionale, con società che fanno il benchmark dei salari, e ciascuna realtà, ciascuna società, ciascuna azienda si permette il lusso di avere quell'1%, quello 0,5% eventualmente in più per poter reggere la concorrenza. Quindi in sintesi, Mauro da Torino dice: l'offerta di lavoro è cartellizzata per quello che riguarda i livelli retributivi, c'è un vero e proprio accordo a tenerli bassi, e non è che siano bassi solo per la bassa produttività, perché anche in settori dove la produttività è elevata le forme organizzative e gestionali realizzano sono finalizzate a realizzare produttività, in realtà le strutture retributive italiane restano troppo basse perché c'è un cartello dell'offerta. Interessante questione, poi chiediamo su questo a Bortolussi come la pensa. Sentiamo Andrea da Roma. Andrea, prego, la sua opinione. Buongiorno a tutti. Io penso che si debba fare una distinzione all'interno delle varie fasce di età per quanto riguarda l'affermazione che si stanno riducendo i consumi, in quanto io sono un 35enne e sto vedendo che per quanto riguarda, diciamo, i miei coetanei c'è una fascia di popolazione che non consumerà più da qui a 30 anni e sono quelli che faticosamente stanno pagando i mutui per aver acquistato degli immobili a prezzi stratosferici. Quindi, partendo sempre da piccoli provvedimenti, però io sono molto d'accordo sul fatto che ci sia una componente troppo elevata che pesa troppo sul reddito disponibile per comprare mattoni con orizzonte trentennale. Però chi li ha obbligati a ragionare che a quel punto il mattone, guardi, questo è il punto che io non capisco. Lei ha ragione, li ha obbligati però la struttura della famiglia, perché se qui, allora, l'ex ministro parlava di bamboccioni, quelli che non sono stati bamboccioni e che hanno voluto formarsi una famiglia o magari avevano disponibilità familiari e allora meglio per loro, oppure si sono dovuti caricare di mutui in cui hanno perfino dovuto pagare le imposte. Quindi io dico, partiamo dalle piccole cose, cominciamo a togliere le imposte dai mutui, perché trovo veramente aberrante che lo Stato lucri sul debito di un cittadino. Cioè, io accendo un mutuo, inizio una prospettiva di pagamento trentennale, in più devo pagare un'imposta sostitutiva o un'imposta di acquisto al costruttore del 10% del prezzo di acquisto. Grazie. Quindi, Andrea ci fa pensare che ci siano poi componenti dove il reddito disponibile è basso, su cui la manovra incentivo ai consumi potrebbe detassare delle componenti improprie di peso fiscale. Ha fatto l'esempio appunto del fisco sui mutui. Alberto da Lodi, come la pensa invece Alberto? Sì, buongiorno a tutti. Io penso questo, che sarebbe l'ideale detassare un po' i redditi medi e piccoli dei lavoratori, ma per far questo chiaramente non possiamo incidere nelle politiche di bilancio, perché i soldi non ci sono, ma per far questo potremmo benissimo, e dovremmo fare delle economie di scala, è quello che tenteremo di fare per far risparmiare le regioni del sud, dove ci sono questi enormi sprechi, sia nella sanità, insomma, dove sappiamo tutti dove ci sono. E forse adesso passo dall'economia alla politica, la ragione per la rottura del PDL e di Fini probabilmente è questa, perché prendendo i voti nella maggior parte da quella zona, ci ricordiamo benissimo Boia, Chimolla, eccetera, tutte queste zone, questi modi di dire del sud, eccetera, chiaramente lui si troverebbe, e i suoi elettori e i suoi grandi elettori gli tirerebbero le orecchie e gli dicono: senti figliolo, adesso tu fai i conti con noi. Non a caso lui si è svegliato negli ultimi 3 o 4 mesi, quando, o 5 quelli che sono, quando la Lega ha cominciato, ha visto che le politiche verso il sud stavano prendendo veramente una piega decisa. Se potessimo risparmiare da quel lato lì, chiaramente le finanze dello Stato, penso io, migliorerebbero e di conseguenza avremmo delle disponibilità per migliorare i redditi medio-bassi e quindi incrementare i consumi. Allora, su questo, tra l'altro, il conto riaggiornato di contabilità regionale fatto dall'Ufficio Studi di Concommercio del Mare Nobella ci dimostra che il divario italiano resta terribile, insomma, no? Perché se pensate che la regione meno produttiva del nord, della Liguria, ha un PIL pro capite superiore di un quarto a quello della regione produttiva del sud, che è l'Abruzzo, e quindi stiamo parlando di divari in cui, se mettete insieme Lombardia, Trentino, Emilia Romagna, c'è un prodotto pro capite che va oltre 32.000 euro anno, e se mettete Campania e Calabria siamo a meno di 17.000, cioè il divario è terribile. E per questo, quindi, in ragione dell'argomento sollevato dall'ultimo ascoltatore, chi rappresenta il sud, chi prende i voti al sud, con ogni probabilità il clima della campagna elettorale, basta iniziare a vedere i giornali del sud oggi, sarà quello di dire a chi ha 17.000 euro o 16.000 euro di PIL pro capite: vogliono levarvi ancora altro i cattivi nordisti, vogliono levarvi ancora un po' di sostegno ai redditi quando voi ne avete la metà di loro. Ecco, io penso che questo sia il peggior contributo che si può fare a risolvere i problemi italiani. Però non illudiamoci, proprio la politica per prendere voti, i giornali per vendere le copie, così fanno, ed è inutile che io mi metta a fare il moralista. Resta il fatto che un paese in cui il divario di PIL pro capite ufficiale è così elevato, mentre la struttura dei consumi rilevata non ha poi divari del 100%, perché i livelli di consumi nella realtà in cui c'è il PIL pro capite pari al 50%, non sono inferiori al 50%, ma sono inferiori di 4-5 punti al massimo rispetto alle aree in cui il PIL pro capite è doppio. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in mezzo c'è un'economia informale, nera, che non è solo criminale, ma è dovuta da intermediazione di alto reddito mediato dalla politica, dalla pubblica amministrazione, che mi fa concludere poi, come al solito, che lì lo Stato è corruttore più che essere vittima di poteri criminali, è proprio corruttore lui, e questo è il punto di fondo che rende difficile fare quello che ci dice il nostro ascoltatore, cioè avere un approccio in cui si taglia spese lì, dimostrando a quei cittadini che hanno un PIL pro capite più basso che così facendo il loro PIL pro capite aumenterà. Del resto la lezione che stiamo vivendo in questi mesi è che chi ha imboccato la strada di più debito pubblico, più interventi dei regolatori pubblici per crescere di più dalla crisi, sta vedendo la crescita che si sgonfia, cioè gli Stati Uniti del mitico Obama, che non sta mantenendo le sue promesse, mentre invece a crescere di più sono paesi come la Germania, appunto, che hanno insieme rigore, tagliano e poi hanno interventi selettivi a favore della crescita. Allora, Tobias Spiller, in realtà la Germania è un modello di crescita oggi perché fa insieme rigore nella spesa pubblica e interventi selettivi quando è giusto a favore dell'export, oppure è contemporaneamente capace di fare quello che l'Italia per il momento non è capace, cioè di dare una mano anche alle imprese manifatturiere esportatrici, che sono il traino del modello tedesco, e contemporaneamente anche di sostenere un po' meglio la domanda interna. Insomma, la ricetta del fare come la Germania che oggi ha successo, in realtà in cosa consiste? Buongiorno. Io penso che quel successo attuale della Germania viene da molto più lontano. Non è questione di aiuti del governo per qualche settore in modo selettivo o no. La questione è che la Germania ha fatto una ristrutturazione della propria economia da quasi 10 anni. Così, cominciando dal fatto che un'azienda che voleva licenziare per essere più competitivo perché non andava bene, poteva licenziare, e poi c'erano anche gli ammortizzatori sociali per quelli licenziati. Ma il fatto porta certamente a aziende che non hanno più tanto grasso che portano con sé, e invece che sono molto più snelle e sono poi anche in grado di rispondere sulla domanda mondiale. E in questo poi ha aiutato anche una certa modestia dei sindacati che hanno voluto non aumentare tanto i salari, e infine anche si è cercato molto di lavorare sui contributi sociali per non farli crescere troppo e possibilmente abbassarli. E poi ci sono tanti altri elementi dove l'Italia, che io penso al nord è quasi come la Germania, dove comunque l'Italia sta un po' peggio e la Germania sta relativamente un pochino meglio, quando si vede quanto è la produttività dell'amministrazione pubblica, della giustizia, come la formazione, come sono i diritti per aziende che sono un pochino più grandi di quelli piccolissimi. In questo la Germania sta relativamente bene. Certamente il mio giornale in Germania, pur essendo liberal conservatore, picchia ogni giorno su quello che questo governo attuale non fa. Ma come si dice in Germania, il detto è: nel mondo dei ciechi quello con un occhio è re. Così la Germania sta relativamente meglio forse, ma non è tutto perfetto. Qual è? No, ma infatti non si tratta di dire che è la perfezione, però una questione: come è stato possibile in questo decennio di ristrutturazione? Un altro aspetto è che la Germania ha fatto scendere di diversi punti la spesa pubblica e la pressione fiscale, contemporaneamente però dando alle famiglie, creando alle famiglie, diciamo, un ambiente molto meno sfavorevole di quanto non avvenga in Italia per la somma di politiche fiscali e di arretratezza della pubblica amministrazione, per fecondità, aiuto al lavoro insieme alla formazione del capitale sociale dei figli. Come è stato possibile, con meno spesa pubblica e meno tasse, fare questo? Sì, ma se veramente si ristruttura anche in profondità, se un primo ministro Stoiber della Baviera prende gli uffici delle forestali e quelli dell'agricoltura, li mette insieme e poi li dimezza. Certamente all'inizio si paga per traslochi e così via, e dopo qualche anno tutta la macchina è più snella, costa meno. In Italia cose del genere sono impensabili. E è una questione, da un lato, delle priorità e di essere conseguenti, dall'altro lato è una questione anche di aspettare un po' di anni con avere la barra dritta anche tra un governo di grande coalizione e poi un governo di destra, centrodestra, in quel senso di non cambiare rotta ogni pochi anni. Carlo Pelanna insegna politica ed economia internazionale all'Università di Georgia, scrive come editorialista sul Foglio, sul Libero, ci conosciamo da anni, e in queste settimane Carlo Pelanna ha scritto: guardate che noi per la domanda interna italiana dobbiamo fare di più. Confindustria forse sbaglia a dire solo export e manifatturiero, perché qui o ci concentriamo sul rafforzare la capacità di spesa di milioni di italiani, oppure noi rimarremo claudicanti, e se rimaniamo claudicanti la componente della crescita sarà sempre troppo bassa rispetto ai nostri competitor, e quindi noi rimarremo su livelli di attività comunque bassi. È inutile che ci illudiamo. Come contemporaneamente si può adottare questa ricetta, vedendo che poi il benchmark di produttività è quello tedesco? Cioè non è che possiamo metterci ad aumentare gli stipendi così a prescindere, come diceva Totò. Come si può fare? Beh, in ogni caso abbiamo, per qualsiasi cambiamento che possa avere un impatto significativo sulla crescita, rendendola maggiore, c'è bisogno di un tempo tecnico e quindi di un sistema politico, come ha detto chi mi ha preceduto, che abbia chiaro quale sia l'obiettivo e tenga la barra dritta. Cioè, significa tutte le cose che sono state dette finora e che ho sentito al telefono. Io aggiungerei un problema però. L'Italia, diversamente dalla Germania, ha un problema di impatto differenziale maggiore del debito pubblico su tutto il ciclo del capitale nazionale. E quindi una politica economica che vuole cambiare le cose in uno scenario a 5-10 anni, per prima cosa ridurre questo impatto del debito, soprattutto il suo impatto annuale, che è il costo del servizio al debito stesso, cioè il costo degli interessi. Quindi l'Italia ha, diversamente dalla Germania, ha la priorità di abbassare in termini assoluti una parte del suo debito, e questo non può essere fatto, è un qualcosa che non ha storia, cioè non c'è nella storia un paese che ha fatto delle operazioni di questo tipo, e questo è di grande difficoltà. Intendo abbatterlo di 100, 150 miliardi, 200 miliardi sarebbe forse una cifra che ci permetterebbe di risparmiare quasi un punto di PIL all'anno in termini di spesa di interessi. E come si fa? Si fa con una formula mista. Vendo una parte di patrimonio, cioè un'operazione patrimonio contro debito che può essere dai 50 ai 70 miliardi, e a un certo punto mi rivolgo alla nazione e mi dice: ragazzi, mi dovete dare una tantum, un 100 miliardi che farò o con un prelievo tipo il 1992 o con una tassa tipo oro la pace. Questa è una complicazione in più. In generale, però, queste parole sembrano un po' fantapolitiche, certo. perché non vediamo da un decennio una politica economica nel paese, semplicemente vediamo delle misure di contingenza che in qualche modo cercano di tenere inquadrati in quadro i conti pubblici e senza modificare il modello del paese. Per questo io a quell'articolo che lei faceva riferimento, e la ringrazio, dicevo se riusciamo a fare, cioè dobbiamo scegliere se diciamo un modello all'americana in cui riusciamo a liberalizzare il mercato interno, quindi a farlo girare più e pian pianino tra qualche anno ottenere degli effetti, cioè quindi modello America, oppure scegliamo più decisamente un modello tedesco che finanzia il mercato protetto interno, che è di una inefficienza paurosa, però riesce a finanziarlo grazie a una politica, una potenza mercantile che attraverso in cui l'export, cioè la massimizzazione delle esportazioni, finanzia in un qualche modo il gap di crescita interna della Germania. Sono due scelte, ovviamente sarebbe meglio avere ambedue, anzi la prima, quella del modello americano, ma la provocazione è cioè che si decida e si faccia una scelta o verso il modello americano o verso quello tedesco, ma si faccia questa scelta, dove il problema è che tutte le belle cose che sono state dette e che sono la maggior parte sono assolutamente condivisibili, la politica non solo non le ha mai fatte dai primi anni 90 in poi, ma sembra che non abbia neanche intenzione di farlo seriamente. Eh sì, c'è un appiattamento dell'orizzonte qui quando si tratta di dibattiti di politica economica. Se avete sentito evocare una misura strutturale straordinaria, one off, per abbattere il totale della montata del debito pubblico e quindi su onere, c'era chi aveva pensato a redistribuzioni in proporzione alle parti di attivi da distribuire localmente, non è stato fatto, era un pezzo di programma del centrodestra anni fa. Carlo Pelanda ha detto si possono fare operazioni straordinarie più pezzi sul mercato, in cambio anche a quel punto, visto che diminuisce molto l'onere di interventi patrimoniali, chiedendo agli italiani, possono essere strade diverse, però sarebbero cambi di passo, mentre qui cambio di passo non c'è. Quello che chiedo in conclusione a Mariano Bella è, per quello che riguarda le retribuzioni, che è il problema più sentito dal più degli ascoltatori che hanno detto qui il problema è che le nostre retribuzioni sono ferme e in realtà diminuiscono in termini reali rispetto a andamenti di prezzo che pure sì saranno modesti, però sono più significativi di quello che dicano poi le nostre buste paga come aumenti. Lì c'è davvero quel cartello di cui ha parlato il nostro amico ingegnere dal Piemonte? Ma c'è il cartello, è il cartello dell'ingessamento del nostro paese nel quale purtroppo le cose cambiano poco. Io non credo che le retribuzioni siano ferme per motivi diciamo esoterici, sono ferme perché le imprese hanno bisogno comunque di competere, quindi la quota di sovrappiù che va al fattore lavoro deve essere limitata diciamo al 60% ed è una quota poi sostanzialmente costante al di là del populismo che ogni tanto si sente. Se abbiamo un sistema pensionistico che fornisce pensioni poco generose a troppo presto a troppe persone, chiaramente insieme alla sanità inefficiente questo genera una quota di spesa pubblica che toglie la possibilità alle retribuzioni di crescere, perché il prodotto complessivo comunque va redistribuito sui diversi fattori. Quindi io non credo che ci sia un cartello, io credo che ci sia un problema di crescita. Sono state dette tante cose sulle quali sono d'accordo. Una cosa voglio aggiungere rispetto a quanto diceva il professor Pelanda. Io non attaccherei il problema con cifre da 100-150 miliardi di riduzione del debito pubblico, sarebbe sufficiente impostare una strategia di riduzione, riduciamo del 2% la quota che abbiamo in Eni e in Enel, vendiamo un po' di patrimonio pubblico, abbiamo bisogno di 8.100 comuni, di 107 province, di 5 regioni autonome, eccetera. Io non lo so, si può fare, io penso di no, ma no, io non credo che sia fantascienza, non è fantascienza, ma è bella, ma tutte le volte che quelli come me ricordano che i voti li hanno presi ai politici promettendo questo, ottiene l'effetto anguilla, ti scappano di mano e ti dicono sì però la colpa non è mia eccetera eccetera. Io penso che andiamo di fronte a una tale degenerazione purtroppo della temperie politica che sia dica duro e puro agli italiani, meno tasse, meno spesa pubblica non solo si può ma soprattutto si deve, e si deve nel nome di chi ha meno e dei sud al sud, di coloro che al sud vengono presi per i fondelli da chi dice vi diamo una mano quando gli hanno levato il futuro. futuro promettendogli la mano a spese nostre nel nord. Questa è la mia idea. Forse ci vuole un partito nuovo per fare tutte le cose che Mariano Bell e Giuseppe Bortolussi, Carlo Pelanda e Tobias Spiller ci hanno descritto come esistenti nella realtà, tranne che non è la realtà italiana, purtroppo, di oggi e forse di domani. In regia, grazie a Roberto Scaltritti, grazie a Alessandro Marco Tulli, in redazione, linea al giornale radio. Appuntamento a domani.